Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, in questa puntata cercheremo di capire qualcosa della intricatissima realtà internazionale. Lo facciamo sulla base del libro di Giulio Sapelli. Buonasera Sapelli. Buonasera, Giulio Fabi. Giulio Sapelli, professore ordinario di storia economica all'Università degli Studi di Milano, e il suo ultimo libro, una copertina verde speranza, si intitola Un mondo nuovo, anzi un nuovo mondo, la rivoluzione di Trump e i suoi effetti globali, edito da Guerini e Associati. La copertina, dicevo, verde speranza. In effetti il contenuto è un po' più intricato, si parla un po' di tutto il mondo, di questa realtà internazionale che ci riserva sorprese, talvolta positive, talvolta negative, dipende anche dai punti di vista, peraltro, e che comunque negli ultimi tempi, come dice a un certo punto lo stesso Sapelli, ha dato un fantastico apporto agli scienziati sociali. Magari è complicato la vita ai cittadini, però gli scienziati sociali si trovano a loro agio nel guardare a questa realtà in trasformazione. Abbiamo avuto Trump, ma forse meglio cominciare Sapelli da quello che ha avuto nei giorni scorsi. Questo Macron in Francia cambierà veramente le sorti dell'Europa? Beh, non credo, perché come ha detto, devo dire lucidamente, il Financial Times, una volta tanto con sintetica, illuminante precisione, Macron è il frutto di una sfacciata fortuna e di una configurazione stellare straordinaria, e io dico di una grande operazione dello Stato francese, che ha fatto di tutto con una serie di bonus straordinarie, l'esistenza che c'è un sistema per far vincere Macron e bloccare la Le Pen, ecco. Quindi c'è stato prima l'eliminazione di Fillon, che era un candidato pericoloso per Macron, però che non era così distante dalla Le Pen, quindi certo, bisognava essere sicuro che non ci fosse una liaison successiva. Poi c'è stata questa sua rapidissima creazione di En Marche, questo movimento stellare. Io mi sono iscritto alla sua email e ricevevo quotidianamente tutte le sue notizie. Un'organizzazione perfetta, proprio sembrava di leggere un manuale di organizzazione militare alla Henri Fayol, veramente una cosa, appunto. E poi c'è stato questo fatto che è stato negativo, però anche questo ha contato, questo non l'ha sottolineato nessuno: i giovani non hanno votato in Francia. E quindi, se da un lato è una cosa che dispiace, salvo che certo, i parigini, però non voglio dire, hanno tolto un sacco di voti alla signora Le Pen, perché, per la quale hanno votato solo gli operai, poi fondamentalmente 75-80% degli operai e degli agricoltori. Ecco, indubbiamente una Francia divisa anche, non solo politicamente, ma anche appunto tra grandi città, dove Macron ha preso il 90% a Parigi e invece il resto del territorio. Quello che pensavamo di solito, una Francia compatta, una Francia nazionalista, invece è una Francia molto, molto divisa anch'essa. Beh, come sempre stato, perché anche l'esempio del capolavoro incompiuto di Fernand Braudel, il libro che non ha potuto finire, beh, ne aveva già scritto tre grandi volumi di 600 pagine, L'identità della France, e il grande maestro si dibatteva sopra sul fatto che c'erano tante identità nella Francia. Certo. Il miracolo di De Gaulle era stato quello di tenerle insieme. Certo, ecco, torniamo al libro, anche perché nel libro c'è un particolare di cui non si è parlato commentando le elezioni francesi, cioè il fatto che la Francia sia una potenza in fondo ancora coloniale, una potenza imperiale, una potenza che ha una presenza molto forte in Africa, dove appunto ha ancora dei piccoli territori, ma soprattutto ha un'influenza politica ed economica particolarmente rilevante. Come potrà giocare il nuovo Macron anche questa partita su una realtà africana che è importante anche per l'Italia? La ringrazio di questa domanda, perché mi dà l'occasione di dire che questo libro, per scrivere questo libro ci ho messo 2 anni. L'editore mi ha tradito, perché ci ha ficcato dentro Trump. Trump, le pagine su Trump le ho scritte nell'ultimo mese di lavoro, quindi vabbè, gli editori hanno, purtroppo il pubblico è quello che è, no? Bisogna cedere a questi lettori. Quando se ne avevano solo 25 gli autori erano meglio compresi, ma purtroppo adesso sono di più. Ma chiudo questa triste parentesi sul rapporto tra intellettuali e popolo per dire, ma certo, la Francia è, dunque, in Francia ci sono 10 stati subsahariani che hanno una moneta unica, una sorta di euro, che si chiama il franco africano, I francesi hanno stanziati, dichiarati, più di 20.000 uomini. Governano praticamente dal Fezzan, per questo hanno creato anche la crisi libica che ha sconvolto l'Italia, ma non loro. Dal Fezzan vanno giù fino al Niger e vanno giù fino al Congo. Quindi sono una grande potenza coloniale e soprattutto hanno una visione imperiale. Cioè si comportano come se, naturalmente la politica di austerity, difficoltà di produrre deficit spending, fa sì che le loro armate non possono essere dispiegate come vorrebbero. Quindi, beh, insomma, lei ha visto cosa c'era dietro Macron, no? Quando ha parlato a Luna. C'era la piramide. Sì. La piramide del grande massone Mitterrand, grande simbolo della massoneria. Quindi Macron è quella roba lì, la Francia è quella cosa lì e fa i conti ancora con la Vandea. Nonostante la legge illuminata del 1905 sul rapporto Chiese e Stato, che veniva non a caso dopo la crisi Dreyfus, la Francia è ancora un paese dove i cattolici si trovano a disagio e anche la questione Le Pen va compresa in questa luce. Ecco, ma in questa prospettiva la presidenza Macron sarà una presidenza pragmatica, una presidenza che sicuramente, come ha promesso, rafforzerà l'Europa, un'Europa... Ma scusi se la... Prego. Questa è una sonorosissima... 80 rispetto per lei, quindi voglio dire, questo non è affatto vero, perché il vero problema sarà che Macron renderà molto più difficile il rapporto con la Germania. Innanzitutto adesso la Merkel ha tutto l'interesse a fare il viso duro con i francesi e lui certo non potrà certo, in occasione delle elezioni legislative che si svolgono ora, non potrà certo piegarsi alla Merkel. Quindi questa favola che Macron rafforza l'Europa, ma non è affatto vero. Macron rafforza la Francia in una posizione competitiva con la Germania. Può anche darsi che questo abbia una conseguenza positiva sull'Europa, cioè introduca una dialettica politica che finora non c'è. Ah, infatti è quello a cui volevo arrivare, io grandissimo rispetto per le sue idee, vede che la mia stima immensa per lei è sempre confermata dalla sua intelligenza. E peraltro è assolutamente ricambiata nei suoi confronti, professore. Però il problema a questo punto, un'Europa rafforzata in un modo o in un altro, sarà un'Europa diversa da quanto si temeva che fosse o si pensava che fosse, ma resta il grande problema del rapporto con la Russia, che è la grande potenza, che è una potenza essenziale, lo dice lei stesso nel libro, anche nella realtà terribilmente intricata che è quella del Medio Oriente. Allora possiamo pensare che anche con la Russia ci possa essere un rapporto che fino adesso è stato così un po' supinamente conflittuale, le sanzioni, ma le sanzioni applicate non applicate, così via, qualche monito, però di fatto non c'è stato un rapporto concreto tra l'Europa e la Russia. Come saranno i prossimi anni? In questo io penso che lei tocca il punto giusto e nel modo giusto. Cioè, innanzitutto c'è una cosa da dire: il Mediterraneo è diventato una piccola parte dell'Oceano Atlantico, importantissima, contendibile. I russi sono ormai stabilmente nel Mediterraneo. I francesi hanno bisogno di questo. Prova sia l'appoggio che hanno dato al generale Haftar, che come lei sa bene è il grande rivale di questo primo ministro libico che l'Italia ha avuto la stupidità diplomatica di appoggiare sola, no? Quindi i francesi hanno fatto un patto fondamentale con la Russia e con Haftar, quindi con l'Egitto. Caso Regeni in funzione anti-italiana, Bocet. Quindi i francesi sono ben decisi a stabilizzare questo rapporto con la Russia, che poi è nelle loro tradizioni golliste, questo non mi pare. I tedeschi anche loro sono attentissimi, la Merkel, voglio dire, ha ripetuto sempre, ha fatto capire che non gli vanno bene le sanzioni, perché lì è una cosa che affonda nella storia d'Europa, quella sì che conta. Il rapporto economico tedesco-russo, teutonico, è fortissimo. Era un prezzo pagato alla fedeltà a Washington. Certo. Adesso, dato che Trump comincia, io credo, in modo meno tumultuoso di quanto appariva all'inizio, ma un rapporto diverso da quello aggressivo, devo dire veramente incredibilmente incapace di avere una visione realistica che avevano soprattutto la signora Clinton e quel povero uomo di Obama, che tutto doveva fare meno che il presidente degli Stati Uniti, non era proprio all'altezza, poverino. Da questo punto di vista le cose secondo me vanno al meglio, e la presidenza Macron e chiunque vinca in Germania, naturalmente vincerà la Merkel, perché certo, i socialdemocratici sono morti culturalmente, politicamente, basta vedere che ripongono le loro speranze in Schulz, che è tutto dire, insomma, come se noi ponessimo le nostre speranze così, insomma, del ministro Poletti, ecco, che è una bravissima, sì, sì, indubbiamente bravissima persona, ma non lo vedo come capo di un nuovo partito socialista. Ecco, Schulz sta a Poletti come la difficoltà della sinistra del mondo è evidente. E abbiamo due paesi forti, la Francia e la Germania. Una battuta in 30 secondi sull'Italia, è un paese che non fa paura a nessuno, ma forse... Scusi, in primo luogo non combatte. E quindi... Mesopotamia non ha combattuto. E come sempre noi non riusciamo a essere fedeli alle alleanze. E non siamo neanche stati fedeli alla NATO, parlo in un modo non passivo ma creativo, no? Certo. Non riusciamo a dare una soluzione alla Libia, dove noi, per carità, siamo... Voglio dire, la nostra marina italiana ha fatto miracoli non solo di umanità ma anche di intelligenza, di attenzione, prodigi, però diverso è il ruolo di una nazione che ha le sue radici del Mediterraneo e che lì ha scritto pagine, certo, importanti della sua storia, del bene e del male. Noi siamo assolutamente assenti. Assenti, ecco, dobbiamo fermarci qui, purtroppo potremo continuare meglio, a lungo. Meglio, perché così siamo più allegri. Evitiamo di dire troppe cattiverie su certi fronti, dove quando ci vuole, però ci vuole anche un po' di cattiveria. Grazie Giulio Sapelli. Grazie dottor Fabi, grazie infinite. Grazie di essere stato con noi questa sera. Ricordiamo il libro Un mondo nuovo, la rivoluzione di Trump e i suoi effetti globali, edito da Guerrieri e Associati, 140 pagine per 15,50 euro. Grazie anche ad Andrea Roccabella in regia, Luca Cremonese in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito Radio 24, cioè www.radio24.it. grazie e buona serata.